Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata, oggi particolarmente interessante. Perché? Perché abbiamo fatto un colloquio con l'architetto Renato Carullo, che è il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, una delle più grandi in Italia, 500 milioni di euro di budget all'anno, quindi oltre 40 milioni di euro al mese spesi. È stata commissariata, prima sciolta per mafia, per infiltrazioni mafiose, e poi commissariata per circa 2 anni. Il 18 marzo i commissari se ne sono andati, lasciando una situazione, diciamo così, precaria, perché altro non potevano fare. Hanno messo delle toppe a falle gravissime, contratti inesistenti, personale esuberante, di tutto di più. Arriva il nuovo direttore generale, che probabilmente la regione vuole già sostituire, perché sapete c'è stato il cambio. E che cosa fa il direttore generale? Come primo atto chiama nel suo staff una persona pochi mesi fa condannata in primo grado a 2 anni e mezzo per abusi di atti d'ufficio. Sarebbe proprio questo alla base, oltretutto, della possibile rimozione, se ci sarà, di questo direttore generale che noi abbiamo sentito, ma questa probabilmente è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Seguiremo lo sviluppo nei prossimi giorni. Intanto ascoltiamoci la chiacchierata che abbiamo fatto con l'architetto Renato Carullo, direttore generale dell'ASP numero 5 di Reggio Calabria. Senta, architetto, a me è giunta voce che stanno per sostituirla. È possibile. È possibile, vero? Certo che è possibile. Come dire, ho avuto il mio contratto, come penso, ritengono di procedere a una revisione generale dei direttori generali. Io con lo sport system non c'entro niente. Quindi, se, naturalmente, siccome io non è che faccio la guerra per rimanere al posto, se l'amministrazione, la mia amministrazione, ritiene di risolvere il contratto, io sono, come dire, pronto a risolverlo. Ma lei che tipo di contratto ha? Di quanti anni? 5 anni, quinquennale. E così sono, è la legge che dice questo. Lei... l'hanno fatto per cortesia. Eh no, ma quindi se la mandano via, mi scusi, sarà anche un brutta botta economica. Quanto guadagna lei all'anno? Beh, abbastanza, diciamo. No, ma non è poi tanto, perché prendo comunque meno di un dirigente del ministero. Quindi quanto? 150.000 euro all'anno? Più no, o meno? No, intorno ai 120. Voglio dire, rinunciare a 120.000 euro all'anno non è, però, no? Pazienza, se qualcuno vuole, se lei abita in una casa d'affitto e la vogliono cacciare. È certo. Senta, naturalmente io non voglio essere in conflitto con nessuno. No, certo. Io vorrei, certo, fare la mia esperienza in questa azienda coadiuvato e collaborando con l'amministrazione. Se ritiene l'amministrazione la mia inidoneità a questa cosa, eccetera, perché poi non so i criteri che loro stabiliranno, saranno criteri tecnici, sicuramente. Io però, siccome seguo la Calabria da tanti anni, io so anche perché la vogliono rimuovere. Sì, perché mi hanno nominato lo ieri, non so per quale ragione. No, glielo dico io, per la nomina nel suo staff di Santo Emilio Caridi. Pazienza, io fino a prova contraria, così come vale per Berlusconi, la condanna per abuso in atto d'ufficio, fino a quando non c'è una sentenza passata in giudicato, la precedente amministrazione formata dal generale Colonnelli lo ha lasciato al suo posto. Lei ha perfettamente ragione, io sono anche garantista, voglio dire, una persona che è stata condannata in primo grado, una persona che è stata condannata abuso in atto d'ufficio, esatto. Quanti parlamentari sono condannati con sentenza però passata voglio in dire, giudicato? Però lei non aveva nessun altro da chiamare al suo fianco, insomma. Se mi suggerisce qualcuno, non, certamente non sono uno svizzero, va bene, però la professionalità dei soggetti non viene meno sicuramente solo perché sono incappati in un procedimento. Però lei mi diede, lei in una chiacchierata privata che abbiamo dato, mi diede del subdolo, cosa che francamente a me è scivolata sopra, perché sono una persona pulita, però insomma non sono stato subdolo, perché se le motivazioni sono queste qualcun altro le prende. Sono stato, appunto, ma sono stato, come dire, irruento in questo senso, perché strano che la prima domanda che lei mi ha fatto era proprio di sapere chi lavorava con me. Però lo vede che era una domanda che aveva un fondamento. Ma lei l'ambiente non lo conosce qui. Beh. Non conosce l'ambiente, e quindi ognuno, il delatore o indipendentemente, non è, lei era, poteva sembrare uno strumento in mano a qualcuno. Beh, io, detto, ma domandagli io, perché io le posso questo. Assicurare che nella mia vita professionale non quindi, sono no, stato ma e non dico, sarò mai uno strumento nelle mani no, di no, nessuno. Per carità, ma io allora istintivamente mi è venuto di dirlo, certo. Perché la prima domanda che lei mi ha fatto è vero che ma guardi, le avrei potuto fare anche altre domande no. E adesso gliele faccio perché poi alla fine le motivazioni sì. Che sono alla base di questo spoil system io credo di conoscerle e una gliel'ho appena detto, persone che lei ha chiamato a suo fianco condannate in primo grado. La seconda è che dicono, quindi adesso lei mi dice è vero, sì. Non è vero, dicono che una delle prime cose che lei abbia fatto quando è arrivato è la progressivo smantellamento del servizio ispettivo all'interno dell'ASP che ci hanno messo anni i commissari per farlo e lei invece adesso lo vuole distruggere. Non è vero assolutamente nulla, non solo intendo mantenere il servizio ispettivo, ho semplicemente detto a tutto il servizio ispettivo che oltre, perché il servizio ispettivo che c'è è un servizio ispettivo che esercita funzioni di controllo e questo è bene e meno male che c'è, certo. Io lo sto rafforzando in questo senso, ho detto anche che l'ufficio ispettivo secondo me non dovrebbe fare quello che fa, nel senso che non deve guardare la fattura, deve ispezionare che le fatture che di competenza probabilmente di qualche funzionario eccetera siano correttamente, questo deve controllare e deve essere in grado di darmi i suggerimenti necessari e opportuni per licenziare il dipendente che commette reati. Ho capito. Quindi mi dica lei quali sono i problemi che invece lei vede, ammesso e non concesso, ma io glielo auguro, che le rimanga al suo posto, cioè che cosa ha trovato, che situazione ha trovato? Che situazione ha trovato? Una situazione che praticamente i generali si sono limitati a governare dal 2000, da quando si sono insediati a quando se ne sono andati, a governare quel particolare momento. Nulla di più e nulla di meno. Denunciando i fatti antecedenti alla loro gestione, alla magistratura, per i quali sono stati avviati procedimenti, e questo è vero, e quindi però non ponendo in essere nessun atto né a sanatoria, né come dire, a sistemare le cose, perché se è vero che da una parte le fatture venivano forse liquidate, sicuramente liquidate, se i decreti ingiuntivi venivano fatti in relazione al supero di prestazioni, è anche vero che qualcuno li ha autorizzati, se li ha autorizzati il magistrato, se gli avvocati sono stati disonesti. Quindi da questo punto di vista devo dire che al di fuori di una mini organizzazione, che peraltro confusionaria, e al di fuori di quella commissione di cui parlavamo prima, c'è solo semplicemente stato, come dire, una fittizia riorganizzazione di due ASL assemblate semplicemente e senza commissario liquidatore, quindi assemblando debiti e crediti di due ASP che erano entrambe fortemente deficitarie. Ecco, però io ho visto, Prego. Sì, aggiungo che praticamente questa visione organizzativa si è completata il giorno 16 di marzo, cioè tre giorni prima che loro andassero via. E i commissari hanno nominato i dipartimenti, i capi dipartimento, i capi distretti, sì, hanno revocato, lasciandomi nel caos. Ecco, però io ho letto molto approfonditamente quello che hanno scritto i commissari, e voglio dire, al di là del rimbalzo di responsabilità, chiamano in causa la regione, eccetera, eccetera, eccetera, però io ho visto quello che loro chiamano le criticità e gli atti fatti a supporto di queste criticità da loro scovate. Poi così poco non mi pare che abbiano fatto, soltanto il fatto di essere entrati, aver messo mano in una situazione in cui non c'era controllo sui dipendenti, le fatture non si sapeva chi le pagava e quando le pagava, la mafia la faceva da padrona, non lo dico io, ma hanno sciolto l'ASP, quindi voglio dire, ecco, a me non pare poi così poco. Vede, sto dicendo che un'organizzazione, va bene, io non dico che è colpa loro, la regione nell'anno 2008 decide di accorpare due ASP. Allora, con tutto il rispetto, le due enti di questa natura, con queste criticità già esistenti e preesistenti, naturalmente non è una sommatoria di personale, quindi bisognava riorganizzare. Questa riorganizzazione che loro hanno tentato attraverso fittizi regolamenti mai applicati peraltro, perché loro parlano di regolamenti eccetera, ma di questi regolamenti io al di fuori della stampa non ho visto operare in questo contesto. L'unica, ripeto, cosa che giusta, quella, questa commissione ispettiva, che devo dire ha dato rigidità ai controlli, eccetera. Va bene, quindi lei giustamente dice: se mi lasciano però lavorare, io lavorerò e avrò gli anni a disposizione. Ma infatti io vorrei completare il loro processo, certo. Mica voglio sovvertirlo. Naturalmente mi meraviglio che a due giorni dalla loro andato via abbiano nominato poi capo dipartimento, distretto, abbiano fatto delle scelte che probabilmente intuito persona potrei condividere o meno. D'accordo, la ringrazio, architetto, buona giornata. Prego, a lei buongiorno, buongiorno. Ringrazio in regia Paolo Corleoni e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani.